Cano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buona giornata a tutti, anche oggi da Marina Macelloni leggeremo insieme i giornali in edicola. Questa mattina sui quotidiani si trova tanta economia, con il taglio dei tassi da parte della BCE deciso ieri e l'allarme della Banca d'Italia sull'economia italiana nel 2009. Ci sono poi ancora le notizie che arrivano da Gaza, la tregua sempre più vicina, ma intanto ieri è stata colpita la sede dell'ONU e grande spazio anche all'indagine della Procura di Napoli sul figlio di Antonio Di Pietro. Ci sono poi molte fotografie spettacolari dell'incidente aereo ieri a New York con l'aereo nel fiume e i passeggeri salvati e infine anche tanto calcio con Kakà e le trattative tra il Milan e il Manchester City. Vediamo i titoli. Il Corriere della Sera, raid israeliano, colpita la sede ONU, Gaza, attacchi e polemiche, Gerusalemme più vicina alla tregua, il Vaticano, violati i diritti delle persone, in Catalogna cancellato il corteo della Shoah, in Olanda marcia antisemita. Di spalla l'economia, la BCE taglia i tassi, Banca Italia, PIL meno 2%, Tremonti, ipotesi, le previsioni per il 2009. A centropagina la fotografia dell'aereo caduto a New York, paura a New York, aereo nel fiume Hudson, tutti vivi. E a centropagina, sempre in grande evidenza, indagato il figlio di Di Pietro, per i magistrati è un atto dovuto, il reato ipotizzato corruzione, l'ex PM sentito per 3 ore a Napoli, fate luce. In fondo alla prima pagina del Corriere della Sera, 100 milioni per Kakà e il Milan tratta, la mega offerta del Manchester City, ora tenta il club di Berlusconi. La Repubblica apre con Napoli, Di Pietro, 3 ore dai giudici, indagato il figlio, ma in grande evidenza le notizie dell'economia, Banca Italia un 2009 da paura, crolla il PIL, meno 2%, la BCE riduce i tassi di 0,5 punto. Anche qui la fotografia dell'aereo nel fiume Hudson a New York. A New York jet sul fiume Hudson, tutti salvi, e di spalla invece Gaza. I tank di Israele a Gaza City, colpiti l'ONU e un ospedale. La stampa, giù i tassi, ma Banca Italia vede nero e nella parte alta della prima pagina un'inchiesta del quotidiano torinese, rosso record a Torino, è la città più indebitata. Il capoluogo piemontese batte Milano e Roma, su ogni abitante pesa un fardello di 5.781 euro. In grande evidenza il titolo su Di Pietro, l'indagine a Napoli, indagato il figlio di Di Pietro, l'accusa è corruzione, l'ira dell'ex PM, su di me neanche un'intercettazione. La fotografia richiama invece la guerra in Medio Oriente, Gaza, bombe sulla sede ONU, Israele, il raid un grave errore, l'Egitto, tregua vicina. Il Sole 24 Ore, il titolo di apertura è recessione, il PIL perderà il 2%, allarme di Banca Italia, ma Tremonti è meno pessimista, sono congetture. Le previsioni per quest'anno, Confindustria, insufficienti gli interventi dei governi, l'inflazione calerà sotto l'1% dal 3,3%. Nel titolo di apertura è richiamato un articolo ancora sulla questione delle deroghe sui conti dei comuni al patto di stabilità, primo sì al federalismo, deroghe sui conti dei comuni, una partita da 15 miliardi. Al centropagina il titolo sulla BCE, la BCE taglia ancora i tassi, in borsa giù i titoli bancari, il costo del denaro al 2%, il petrolio cade fino a 33 dollari. E un altro richiamo è dedicato alla questione del gas e alla diatriba tra Russia e Ucraina, l'ENI guiderà un consorzio per sbloccare la crisi del gas tra la Russia e l'Ucraina, soluzione dopo il contatto Putin-Berlusconi. Il Messaggero, BCE, tassi al minimo storico, la Banca Centrale Europea taglia il costo del denaro di 0,5 punto, ora è al 2%. Con la fotografia viene richiamata invece la notizia da New York, New York jet precipita nel fiume Hudson, 151 a bordo, tutti salvi. Il taglio centrale del Messaggero è dedicato invece a Napoli, Napoli indagato Cristiano Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori si presenta in procura, trasferì in Mautone ma insieme ad altri. Il Giornale apre su Di Pietro. Di Pietro torchiato, Di Pietrino indagato, il giorno nero di Tonino, interrogato 4 ore dai PM di Napoli, mentre si scopre che il figlio è sotto inchiesta per i suoi rapporti con Mautone. Ennesima versione sulla talpa, al Ministero aveva una squadra di 007. Libero anche, guai in famiglia, indagato di Pietro Figlio, Cristiano sotto inchiesta da giorni per corruzione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio. Il padre, leader dell'Italia dei Valori, interrogato per ore a Napoli. Le indagini si complicano. L'Avvenire, Medio Oriente, Gaza brucia ancora, colpita sede ONU, ucciso anche il ministro dell'interno di Hamas, la santa sede, diritti violati e civili usati come scudi. Mentre invece il titolo centrale del quotidiano cattolico è dedicato all'economia, Tremonti Banca Italia, duello sul PIL e la BCE taglia, costo del denaro al 2%. L'Unità invece torna sulla questione, la vicenda mediorientale, quel che resta di Gaza, e fa nella prima pagina un elenco delle notizie di ieri, ora per ora: 10:20 attacco al Palazzo ONU, 10:38 bombe sulla stampa estera, 11 colpito l'ospedale. Alla stessa vicenda è dedicato il fascione rosso subito sotto la testata: stavamo dormendo e sono arrivate le bombe, sono riuscita a proteggere i miei figli, ma qui i bambini sono terrorizzati. Ci sono morti e distruzione. Abbiamo anche paura di scappare. Gente del mondo, dove siete? Testimonianze da Gaza raccolte dall'UNICEF. Anche il Manifesto dedica l'apertura a Gaza con una vignetta di Vauro, c'è un soldato israeliano in un carro armato, Gaza colpita sede delle Nazioni Unite. E il soldato dice: non è colpa nostra se i bambini non si fanno scrupolo a farsi scudo dell'ONU. Israele bombardata la sede dell'agenzia la sede dell'agenzia profughi dell'ONU a Gaza, proprio mentre Ban Ki-moon incontra Tzipi Livni, colpiti anche un ospedale e le redazioni di molti giornali e TV. Il Riformista invece torna sull'economia, l'Italia va a picco, Banca Italia annuncia un anno di dura recessione, meno 2%. La Padania, Roma ladrona, federalismo subito. Infine il Secolo XIX, BCE taglia ancora, Italia PIL a picco. A questo punto ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea al GR. È la stampa, Belletta, la stampa. Di nuovo buongiorno a tutti, siamo di nuovo in onda con la rassegna stampa di Radio 24. Approfondiamo adesso alcuni dei temi che abbiamo visto prima nei titoli dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo dall'economia e prendiamo il Sole 24 Ore per fare la sintesi della giornata di ieri, che sul fronte economico è stata piuttosto calda. Il titolo di apertura del Sole l'abbiamo visto prima, è dedicato alle previsioni di Banca d'Italia per il 2009 sull'Italia. Come racconta il Sole la cosa? L'economia italiana è caduta in una recessione profonda. Secondo Banca Italia quest'anno il PIL registrerà una flessione del 2%, la più pesante da 33 anni. Una previsione soggetta a molte incertezze e che potrebbe essere meno negativa se verranno applicate tutte le misure varate per la stabilizzazione dei mercati finanziari e a sostegno della domanda. Pesanti le previsioni sugli investimenti, meno 7%, mentre il calo dell'inflazione sotto l'1% secondo Confindustria rispetto al 3,3% del 2008 confermato ieri dall'Istat aiuterà i consumi. È meno pessimista il ministro Giulio Tremonti. Le stime sul PIL sono solo congetture perché l'economia è entrata in una terra incognita. Per Confindustria 4,9 miliardi varati dal governo non bastano a garantire il rilancio, come sono inadeguate le misure di altri governi europei. E proprio per stare in Europa vediamo cosa ha fatto ieri la Banca Centrale Europea, che ha ridotto come previsto il tasso di interesse di riferimento di mezzo punto percentuale al 2%, scrive il Sole 24 Ore, livello più basso da inizio 2005. Sulle borse è stata un'altra giornata nera per i titoli bancari, soprattutto a Wall Street. Ancora in caduta libera, i prezzi del petrolio scesi a New York fino a 33,20 dollari al barile. E all'economia italiana soprattutto è dedicato l'editoriale del Sole 24 Ore di Orazio Carabini, il cui titolo è «I numeri, la prudenza e le terapie». Il meno 2% previsto dalla Banca d'Italia per il PIL 2009 può colpire, ma non è sorprendente. Anche gli altri centri di ricerca, ufficiali e privati, nelle prossime settimane presenteranno all'opinione pubblica risultati simili. Lo stesso Jean-Claude Trichet, scrive Carabini, spiegando i motivi del ribasso dei tassi di interesse al minimo storico per l'Eurozona, ha annunciato che le previsioni di marzo saranno significativamente peggiori delle precedenti. Il ministro Giulio Tremonti ha ragione a sostenere che siamo in terra incognita. L'incertezza, come ripete spesso la Banca d'Italia nel suo suo bollettino è forte e il quadro potrebbe cambiare in peggio, ma anche in meglio se per esempio il pacchetto di Barack Obama fosse in grado di rovesciare magicamente le aspettative. Le simulazioni econometriche però non sono esercizi di astrologia, né purtroppo semplici congetture. Tutti si augurano, continua l'editoriale del Sole 24 Ore con il ministro, che a fine anno quei numeri si rivelino errati o superati dagli eventi, ma per ora è questo lo scenario più verosimile, che fa tornare alla mente la recessione del 1975, quando il PIL diminuì del 2,1%. Il problema vero è che cosa può fare la politica economica per frenare l'avvitamento e innescare la ripresa. La BCE, con la sua decisione di ieri, ha fatto quello che era giusto fare. Prosegue a pagina 2 l'editoriale del Sole. Il governo italiano temporeggia, probabilmente vuole anche capire quale sarà l'atteggiamento dell'Unione Europea verso i paesi che oltrepassano la soglia del 3% del deficit, per evitare di incorrere in sanzioni reputazionali pericolose per il debito. Ma se non vuole rinunciare all'unica arma di cui dispone per affrontare la recessione, sarà costretto a trovare una sua via al deficit spending che tenga conto dei vincoli posti dal debito pubblico. Questo è l'editoriale del Sole 24 Ore sulla situazione economica italiana. Anche Repubblica dedica allo stesso argomento uno degli editoriali di prima pagina di oggi, di Massimo Giannini, Il dovere della verità. Datemi da una parte milioni di voti, toglietemi dall'altra parte un atomo di verità e io sarò comunque perdente. Lo scriveva Aldo Moro al culmine della sua tragedia umana. Ora, nel turbine della tempesta economica, non pretendiamo che Giulio Tremonti dimostri la stessa cifra politica del grande statista democristiano. Ma per quanto possa sembrare il ministro del tesoro più colto d'Europa, come gli ha riconosciuto Tony Blair una settimana fa, non può più nascondere la verità dietro la cortina fumogena della sua erudizione filosofica e dei suoi virtuosismi lessicali. L'ultimo bollettino della Banca d'Italia descrive un quadro da economia di guerra. La crisi globale si è intensificata ed estesa. Nel 2008 il prodotto lordo decresce dello 0,5%. Ci sono tre questioni cruciali, scrive Massimo Giannini a pagina 29 di Repubblica, che il governo Berlusconi e il suo famoso mago dei numeri non possono più eludere. La prima questione riguarda proprio la verità, cioè il che dire agli italiani. È vero che questa crisi è la più complessa dell'ultimo mezzo secolo, è vero che cambia forma e sostanza di giorno in giorno, ma in tanta incertezza fisiologica c'è una costante patologica. Secondo tutti i maggiori osservatori internazionali, l'Italia è tra le nazioni più in difficoltà. La seconda questione, scrive sempre Giannini, riguarda il che fare. E secondo Giannini, il ministro ha il dovere di rimettere mano al pacchetto anticrisi varato nei mesi scorsi, che di ora in ora si conferma chiaramente inadeguato a fronteggiare l'emergenza. La terza questione, conclude l'editoriale di Repubblica, riguarda la leale collaborazione tra le istituzioni, che la gravità di questa crisi rende non solo ovviamente consigliabile, ma assolutamente indispensabile. Da troppi mesi il ministro del Tesoro ha ingaggiato un conflitto suicida con il governatore della Banca d'Italia. Questo l'editoriale di Repubblica. Dal Corriere della Sera, sempre per rimanere in temi economici, vorrei segnalare invece un aspetto particolare, che è quello che riguarda una delle imprese principali del nostro paese, cioè la Fiat. Il caso Fiat è richiamato sul Corriere della Sera in prima pagina. Il titolo è Marchionne, l'auto e Moody's. L'articolo di Raffaella Polato comincia così: da ieri il lingotto è ufficialmente nel mirino di Moody's. Il declassamento del debito è possibile. L'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, assicura: siamo consapevoli che il business dell'auto è messo a dura prova dalla crisi che ha colpito prima la finanza e ora anche l'economia reale, e aggiunge: in considerazione dell'alto tasso di occupazione si rendono quanto mai urgenti azioni di sostegno a livello europeo. Sono le richieste dell'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. Allo stesso argomento si appassiona anche Il Foglio in prima pagina, con un articolo che si intitola La solitudine di Marchionne. Finora l'Italia è l'unico paese a non pensare a interventi per l'auto. Per questo l'amministratore delegato di Fiat chiede sostegni europei. Ma nel governo c'è chi preferisce un partner estero. Crescono le tensioni al vertice del Lingotto. Il Foglio racconta così la crisi dell'auto. Sulla scia dei pessimi dati sulle matricolazioni europee, meno 17,8% a dicembre 2008 rispetto al 2007, risultato peggiore dal 93, oggi si riuniscono a Bruxelles i ministri dell'industria dell'Unione Europea per decidere una linea comune. All'appuntamento si arriva in ordine sparso. Francia e Germania, alla vigilia del vertice, hanno annunciato già proprie iniziative. A Bruxelles il nostro governo sarà rappresentato da Claudio Scajola, ministro dello sviluppo economico, favorevole a un pacchetto di aiuti finanziato in parte dai singoli governi e in parte da fondi europei concentrati sull'ecosostenibilità. Il rischio da evitare, secondo i vertici del Dicastero di Via Veneto, è quello che si sta profilando, e cioè che ciascuno agisca in maniera autonoma, causando squilibri fra i paesi ricchi, quindi in grado di sostenere con cospicue doti le case nazionali, e quelli poveri, come l'Italia, la cui industria dell'auto, vale a dire la Fiat, si ritroverebbe svantaggiata. Questo quadro di incertezze, scrive il Foglio, non può che aumentare i livelli di stress già elevati del Lingotto, dove rischia di appannarsi perfino l'astro di Marchionne, geniale risanatore e bulimico accentratore, uomo che non conosce riposi e feste comandate, né li concede a chi sta al suo fianco. Oggi rischia probabilmente di pagare il pegno che tocca a tutti coloro che hanno molto vinto al tavolo da gioco, quando la ruota cambia giro e si fa improvvisamente ostile. Torniamo adesso sul Corriere della Sera per parlare di un altro argomento, e cioè che cosa è successo ieri alla Procura di Napoli. Il Corriere della Sera titola: indagato il figlio di Di Pietro, l'ex PM sentito per 3 ore a Napoli, fate luce. La sintesi della giornata è questa. Cristiano Di Pietro è tra gli indagati nell'inchiesta sull'imprenditore Alfredo Romeo e su ex esponenti dell'amministrazione comunale di Napoli. Atto dovuto. Secondo gli inquirenti si tratta di un atto dovuto necessario per eseguire ulteriori attività investigative. Ieri Antonio Di Pietro ha invitato i PM a indagare senza alcun riguardo anche su parenti, figli compresi, e su esponenti del mio partito. Gelo del Partito Democratico. Non abbiamo commenti da fare. Come sempre in questi casi rispettiamo il lavoro della magistratura. E sempre su questi temi e su Napoli, su quello che succede in quella città, segnalo su Repubblica, e ne leggiamo alcuni pezzi, l'intervista di Alberto Statera a Bassolino. Il titolo è, l'intervista è a pagina 12 e 13 di Repubblica, il titolo è: io cacicco vado avanti ma non tiro a campare, ora pago per aver ascoltato troppo il partito. Cosa dice Bassolino? Il cacicco dei cacicchi, il viceré di Napoli e della Campania, Antonio Bassolino, non arretra di un pelo, e dopo il confessionale senza perdono di martedì scorso con Walter Veltroni e Massimo D'Alema al Largo del Nazareno, finalmente parla e si arrocca nella resistenza istituzionale a oltranza, negando orgogliosamente, vecchia rocciosa scuola comunista, il ruolo di icona nazionale del malgoverno. Anzi, è lui stesso a somministrarci didascalico la nascita nel lessico politico del termine e la fenomenologia del cacicco. Guardi, dice Bassolino, per sua conoscenza, il termine cacicco fu usato in politica per la prima volta da Massimo D'Alema negli anni 90, durante la stagione dei sindaci eletti direttamente dai cittadini. D'Alema si riferiva all'autonomia che conquistavano i primi cittadini. Autonomia giusta, termine critico. In un momento di crisi dei partiti, l'autonomia dei sindaci fu il modo per riaprire il canale di comunicazione tra la politica e i cittadini. Ma ora le chiedono un passo indietro e lei, con la sua socia cacicca Rosetta Iervolino, li manda, come dire, chiede Alberto Statera. Guardi, io ho ascoltato il partito nel 2000 quando mi hanno candidato in regione. Avrei potuto completare il mandato di sindaco e poi stare a Roma a fare una vita più tranquilla. Ho ascoltato nel 2005, quando sono stato rieletto col 62% in una regione che 5 anni prima era del centrodestra. Si disse che la mia ricandidatura rendeva meno difficili le elezioni politiche del 2006, nelle quali la campagna poteva essere determinante. E sa chi portò i 24.000 voti che consentirono a Prodi di diventare presidente del Consiglio? Suppongo che sia stato lei. Esattamente, fu io che nella notte chiamai Prodi per annunciargli: Romano, ce l'abbiamo fatta. Forse sarebbe stato meglio che fossi stato a sentire un po' meno i vertici del partito. Altro che cacicco. E sull'argomento invece di Pietro riprenderei La Stampa, che ha invece l'editoriale di Riccardo Barenghi, eccolo qua, scusatemi, non lo trovavo più. Il titolo è Così fan tutti. Ha chiesto giustamente che i magistrati indaghino a tutto campo senza guardare in faccia parenti e amici. Così Antonio Di Pietro ha reagito ieri sera a quella che sembra una dura vendetta della dea greca Nemesi, che compensava la gioia con il dolore. O se vogliamo prenderla meno alla lontana, continua Riccardo Barenghi sulla Stampa, possiamo citare Bettino Craxi quando nel suo famoso discorso in Parlamento nel 92 disse una frase che fu allora molto contestata, ovviamente dalla sinistra: così fan tutti. Ora si scopre che fra quei tutti potrebbero finirci anche parenti e collaboratori di quel personaggio che allora mise Craxi, il suo PSI, l'ADC, molti imprenditori italiani, insomma tutta la Prima Repubblica, sotto lo schiaffo di Mani Pulite. Uno schiaffo sacrosanto, ci mancherebbe altro. Di Pietro sa, dice Barenghi, che da domani gli sarà più difficile presentarsi in una qualunque tribuna televisiva, magari da Santoro, in compagnia dei suoi amici Travaglio e Beppe Grillo, e tuonare contro il malaffare della politica. E anche se Di Pietro ne uscisse personalmente pulito, come ovviamente ci auguriamo, la sua immagine subirebbe comunque un colpo. Continua e conclude l'editoriale Barenghi, ma se questo sarà il probabile esito, resta la domanda di fondo. È possibile fare politica a livello nazionale e locale, ossia gestire la cosa pubblica, amministrare il paese, le regioni e le città, senza sporcarsi le mani con gli affari? Il che non vuol dire certo dire senza avere rapporti con costruttori, imprenditori, mediatori e quant'altro, ma averli senza che appunto queste relazioni assolutamente indispensabili in una società moderna finiscano in bustarelle, raccomandazioni, favori, carriere personali, insomma nella corruzione. A questo punto ci fermiamo ancora per qualche minuto, diamo la linea alle notizie sul traffico. È La Stampa dell'Esta, La Stampa. Eccoci qui per l'ultima parte della rassegna stampa, torniamo alla politica italiana con il Corriere della Sera, che torna sugli scontri dei giorni scorsi tra Berlusconi e Fini all'interno della maggioranza di governo. Lo fa con un retroscena di Francesco Verderami a pagina 14 nelle pagine di politica. Il titolo è Gradimento, le liti con Gianfranco costano al Premier 5 punti in meno. Cresce lo scontento tra gli elettori di Alleanza Nazionale e Lega. 5 punti in meno nell'indice di gradimento, tutto in un colpo, come accade nelle giornate nere di Wall Street. Chissà se Berlusconi è rimasto stupito nel leggere quei dati o se vi ha scorto la conferma dei suoi timori, perché un conto sono le liti sui provvedimenti di governo, dove il confronto inevitabilmente precede la mediazione. Altra cosa sono invece le polemiche verbali, i diverbi fini a se stessi. Sui primi l'opinione pubblica è disposta a concedere fiducia, infatti il Cavaliere per mesi ha potuto registrare consensi bulgari, ma da un paio di settimane gli screzi nella maggioranza sono diventati quotidiani, finendo per intaccare l'immagine del Premier. Ecco il motivo, scrive Verderami sul Corriere della Sera, della pesante flessione nel diagramma, sebbene la PIL del Cavaliere rimanga ancora nettamente sopra il 60%. A provocare la caduta è stato anzitutto lo scontro con il Presidente della Camera. A contribuire al crollo negli indici di gradimento del Premier è stata poi la polemica su Malpensa sollevata dalla Moratti. Insomma, per una volta a pagare Berlusconi, penalizzato soprattutto da quanti si dichiarano di Alleanza Nazionale e della Lega. E sullo stesso argomento c'è anche un editoriale del Riformista firmato da Giampaolo Pansa. Il titolo è Che succede se perdiamo anche il Berlusconi terzo? Il morto si mangia il vivo. Nel Medioevo era un supplizio tra i più feroci. Il condannato alla pena capitale non veniva ucciso, ma legato a un cadavere, con le catene ben strette. Dopodiché tutti se ne dimenticavano. La putrefazione del cadavere si estendeva al condannato. I vermi del morto cominciavano a divorarlo. E la fine arrivava dopo sofferenze indescrivibili. Comincia con questo scenario terribile l'editoriale di Giampaolo Pansa. La faccenda del morto che si mangia il vivo mi è ritornata alla solamente nel vedere quel che accade nei due blocchi della politica italiana. Che cosa avvenga nel centro-sinistra lo vediamo da mesi. Il Partito Democratico vive soltanto nelle nostre cronache e nei talk show televisivi. Per dirla chiara, una catastrofe che tuttavia non dovrebbe impensierire la metà degli italiani che ha votato per il centrodestra. Invece che cosa accade? Avviene che il male oscuro del PD sta intaccando anche il blocco di governo con una rapidità che lascia a bocca aperta perfino il più pessimista degli osservatori. Continua poi a pagina 4 l'editoriale del Riformista. Nel centro-sinistra molti gongolano nel constatare che il loro male oscuro sta intaccando gli avversari. Tuttavia penso che sia un errore tragico godere delle disgrazie del blocco di governo. Sappiamo tutti che anno orribile sarà il 2009. Più che mai l'Italia avrà bisogno di essere governata. Che cosa accadrebbe se il Berlusconi terzo dovesse cadere? Non oso immaginarlo. Dobbiamo dunque fare il tifo per il Caimano? In un certo senso sì. Se pensate che la mia sia una bestemmia, vi prego di ricordare supplizio medievale. Il morto è già morto, il vivo muore anche lui. Chi resta in campo? Lo spettro di un uomo forte, capace di cambiare faccia all'Italia, di cambiarla in peggio, si intende. Oggi questo uomo forte non ha ancora un nome e un volto, ma domani, così conclude l'editoriale di Giampaolo Pansa sul Riformista. A questo punto vorrei tornare, negli ultimi minuti che ci restano, sul Corriere della Sera per raccontare un pochino come hanno visto i giornali la giornata invece in Medio Oriente, e soprattutto il Corriere della Sera fa il punto sulle trattative diplomatiche per raggiungere la tregua. Nel servizio dal corrispondente a Gerusalemme Francesco Battistini a pagina 6. Piano egiziano, Israele più vicino alla tregua, questo è il titolo. Diplomazia al lavoro, Olmert, alcuni particolari da chiarire. L'ONU, questione di ore. Il bastone dei bombardamenti, la carota della diplomazia. Il giorno più duro della guerra di Gaza sembra il giorno dei discorsi più morbidi, dei negoziati possibili, dei colloqui più distesi. Torna dal Cairo il generale israeliano Amos Gilad, che ha trattato 4 ore con l'egiziano Omar Suleiman, argomento di mezzo sì di Hamas al piano egiziano. Parte per Washington Tzipi Livni, ministro degli esteri dello Stato ebraico, e va da Condoleezza Rice a studiare già la sorveglianza dei vali. L'impressione è che decollino pure le buone notizie e la disponibilità di Israele. Ok, il piano egiziano è un punto di partenza, si preparerebbe a dire Olmert. Ci sarà un altro incontro con gli egiziani per chiarire qualche particolare, ma tutto sommato si può fare. Questo è lo scenario di speranza che segnala il Corriere della Sera. E sempre sul Corriere della Sera invece vorrei segnalare la vicenda dell'Expo. È il giornale che la tratta con maggiore evidenza, con un richiamo in prima pagina. Il titolo è Paga da tranviere ai manager Expo. L'assemblea di Expo ha accolto ieri la proposta del Ministero del Tesoro per il compenso del board della società. 170.000 euro complessivi per i 5 membri, di cui 50.000 al presidente Diana Bracco e 30.000 ciascuno agli altri 4 esponenti del consiglio di amministrazione, compreso l'amministratore delegato Paolo Glisenti. Lo stipendio di un tranviere, meno di quello che prendono una babysitter ben referenziata in centro città. Andiamo poi a pagina 20 nelle cronache. Lo stipendio di un tranviere, meno di quello che prende una babysitter ben referenziata in centro città. L'assemblea di Expo ha accolto ieri la proposta del ministro del tesoro per il compenso del board della società. Il braccio destro di Letizia Moratti, cioè Paolo Glisenti, che pare pagare le conseguenze dell'eterna guerra fra il sindaco di Milano e Giulio Tremonti, ha però rinunciato ieri ad ogni emolumento fino al 31 marzo. Lo faccio per spirito di servizio, ha spiegato, e per poter finalmente avviare i lavori di questa operazione che è strategica per tutto il paese. Mi auguro che nel frattempo le diversità di opinione si risolvano. E rimaniamo sul Corriere della Sera per parlare qualche secondo di sport. 100 milioni per Kakà e il Milan tratta la mega offerta del Manchester City, ora tenta il club di Berlusconi. Riccardino Kakà potrebbe essere ceduto al Manchester City. Dopo 2 giorni l'offerta della squadra inglese fa vacillare il Milan, che autorizza i manager del giocatore brasiliano a trattare. Il popolo rossonero è in tumulto, si spacca, ma anche l'Inghilterra è divisa. Alla notizia sono dedicate 2 pagine nello Sport. Kakà via libera, l'offerta offerta fa vacillare il Milan, che autorizza i manager del giocatore a trattare con il City, e c'è anche un servizio da Londra dove si spiega che davanti all'affare del secolo l'Inghilterra si spacca in due. Gli entusiasti, non toglieteci la gioia di sognare. Infine segnalo su Repubblica che si torna su la malattia di Steve Jobs e i destini di Apple, con un lungo servizio a pagina 34 di Vittorio Zucconi, che si intitola Jobs, l'ultima battaglia del guru che ha reso belli i computer. Ansia per la salute dell'inventore della Apple, ma anche per l'azienda nata dal suo genio. Se il mondo dei computer fosse una religione, oggi si accenderebbero milioni di candeline per la vita e la salute di Steve Jobs, per l'orfano che dal garage dei genitori adottivi in California convertì le folle al culto della mela e convinse anche i più maldestri fra di noi all'uso del personal computer. Non è soltanto un CEO, il presidente e amministratore delegato di una grande azienda, quel 43enne e ormai scheletrico signore in perenne maglioncino scuro girocollo che si è ritirato dalla guida della Apple per tentare di guarire il male misterioso che lo stava consumando in pubblico. Attorno a lui, come a tutti i santi, ai visionari e ai profeti, ruotano dagli anni 70, quando era ancora un ragazzino con le tentazioni hippie negli occhi e i lamenti dei sitar indiani nelle orecchie, la venerazione, l'odio, le leggende, le invidie di chiunque abbia visto o usato uno di quei prodotti, dal Mac all'iPhone, ai lettori di musica iPod, che nessun altro come lui sapeva impacchettare. Con questo chiudiamo, io ho finito la mia rassegna stampa per oggi e per tutta la settimana. A risentirci da Marina Macelloni.